Parlarci di benessere questa mattina. Voglio parlarci di benessere perché tutti noi ricerchiamo benessere. Sarebbe strano se non fossimo alla ricerca del benessere, però io non voglio solo parlarvi di benessere, io voglio parlarvi di un benessere costante, un benessere che è costante in ogni stagione, in ogni circostanza, perché è ovvio che tutti stiamo bene quando tutto va bene. Noi dobbiamo ricercare quello che è un benessere maggiore, un benessere che è assicurato in ogni stagione, in ogni periodo della nostra vita. E vi siete accorti che la nostra vita è fatta di stagioni diverse? Come è vero per la natura, che c'è l'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno e poi il ciclo riprende, così è vero nella vita. Fra 10 giorni comincerà l'inverno. E poi dopo l'inverno ci sarà la primavera. Quanti amano la primavera? Per me è la stagione migliore. E poi c'è l'estate. Quanti amano l'estate, no? Ora, come è vero in natura, così è vero nelle nostre vite. La Bibbia lo ripete, lo ribadisce più volte, in più occasioni, ci ricorda che la vita è fatta di stagioni. Ci sono stagioni che tutto va bene, tutto fila liscio. Ci sono stagioni dove le cose vanno in una maniera imprevista, ci sono molti disequilibri. C'è una stagione dove tu ti affatichi, ti sforzi e ti sacrifichi per ottenere degli obiettivi e poi ci sono delle stagioni nelle quali benefici di ogni successo che hai potuto ottenere. Ci sono stagioni nelle quali hai la gioia di nuove conquiste, è tutto in cambiamento, è tutto in rivoluzione, ci sono cose nuove, belle. Ci sono stagioni dove sembra tutto appassirsi e dove le foglie cadono e tutto si ferma e c'è freddezza. C'è la stagione nella quale hai la gioia di mettere pannolini, ma c'è anche la stagione dove i pannolini vanno tolti. Ed è diverso, no? Capite quello che voglio dire? Cioè, è bello mettere il pannolino quando tutto è pulito, quando tutto è ordinato. Quando avremo dei figli, io e mia moglie, io mi offro volontario a mettere il pannolino. A toglierlo, offro lei volontaria. Ci sono stagioni nelle quali le cose non vanno bene, dobbiamo essere sinceri a riguardo. Ci sono stagioni che sono particolarmente difficili. Ci sono stagioni, e vengono per tutti noi, dove ogni cosa sembra andare per il verso sbagliato e ad una cosa che va male se ne segue un'altra che va peggio ancora. Sono quelle stagioni che ci portano a disperarci, sono quelle stagioni nelle quali noi da credenti diciamo: Signore, se devi tornare, io so che devi tornare, questo è un buon momento, fallo ora. Questo è un buon momento, torna ora Gesù, ho bisogno che tu torni ora perché non ce la faccio più. E sono quelle stagioni che dove andando tutto storto invidi chiunque altro. Osservi la vita di altre persone e invidi quello che loro stanno vivendo. E invidi chiunque, invidi anche il cane che c'è a casa. Non so quanti hanno avuto una sana invidia e gelosia per il proprio animale domestico. Noi avevamo un cane che si chiamava Mozart ed era un cane felice e come ogni cane felice tutto quello che faceva era mangiare, dormire, correre, fare danni e non patire nessuna conseguenza per quei danni. E io ricordo in una stagione difficile della mia vita che guardavo il mio cane e dicevo: ma che bella vita, ma perché c'è questo detto vita da cani? La vorrei io una vita da cani. E quando stai invidiando il tuo animale domestico, beh, sai che non ti trovi in un buon periodo. Quindi se oggi mi stai ascoltando e stai vivendo un'invidia per il tuo animale domestico, questo messaggio in modo particolare per te, perché Dio ha una promessa per ciascuno di noi e io ve la voglio leggere, si trova in Geremia 17 e dice così: benedetto, benedetto, Dio è per la benedizione, per la gioia, per la felicità, per il benessere. benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Nient'altro, è il Signore. Ascoltate ora, egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Queste sono delle meravigliose parole, poetiche, incoraggianti, piene di conforto. Ma l'autore, ciò che ci interessa, l'autore di queste parole è il Dio onnipotente, colui che ciò che dice fa, ciò che promette mantiene. L'autore di queste parole è un padre buono, è il nostro padre buono. E quindi non stai leggendo solo qualcosa che suona bene, che è poetico, che può alimentare delle sane emozioni dentro di te. Tu qui stai leggendo delle promesse di un padre buono, il tuo padre buono, con il quale hai un rapporto, una relazione. Lo spero. E se non ce l'hai, queste parole ti invitano ad averla. Ti invitano a confidare, ad avere fiducia in un padre buono. Lo percepite l'amore di Dio? Quanto amore c'è in queste parole? È Dio che ti dice: io voglio il meglio per la tua vita e lo voglio in ogni stagione. Voglio che tu stia bene non solo quando tutto va bene. Io voglio che tu stia bene anche quando tutto va male. Io voglio costante benedizione per la tua vita e un benessere che è duraturo. Questa è la vita che Dio ha in mente per me e per te. È una vita benedetta, alla luce di queste parole e di tante altre che troviamo nella Bibbia, non è una vita priva di difficoltà. Ci sono credenti che pensano che Dio sia deludente e che non mantenga le promesse perché nella propria vita si affacciano delle tempeste. Ma non è così. Dio non ci promette una vita dove mai nulla di male ci accadrà e dove la tempesta non sarà mai presente e non verrà mai la stagione arida. No, Dio ce lo dice, verrà tutto questo. Siete su questa terra, è una terra decadente, una terra corrotta, è una terra dove la pienezza della presenza sua non è totalizzante perché c'è anche la presenza del male. Un giorno vivremo nell'eterna condizione di benessere, dove nessun problema, nessuna guerra, nessuna lacrima, nessuna malattia, nessuna sciagura ci sarà. Ma oggi siamo in terra e Dio ti dice: la mia promessa per te non è una vita dove non ci saranno più stagioni difficili, ma qualcosa ancora più di glorioso. Io ho in mente per te una vita che, nonostante le circostanze, le stagioni che si susseguono e nonostante verranno delle stagioni particolarmente difficili, tu rimarrai verdeggiante e fruttuoso. Non è questa la vita che vogliamo, questa è la vita che io voglio. Questa è proprio la vita che io voglio, perché questa è una vita che poi ha da dare una testimonianza, ha da raccontare di qualcosa di meraviglioso, racconta qualcosa che è fuori dalla logica e dalla naturale conduzione di vita che ogni altra persona viva su questa terra. Io voglio che le persone, guardando la mia vita, possano dire: c'è qualcosa di straordinario in quest'uomo. E io voglio poter dire: ciò che c'è di straordinario nella mia vita è Cristo Gesù. È Dio, il Dio che mantiene le sue promesse. Amen. Lo vuoi anche tu? Vedete, la Bibbia ci offre tanti esempi e tanti personaggi proprio che sono esemplari per noi. E un esempio meraviglioso che troviamo nella Bibbia è l'esempio di Daniele. E io voglio prendere quella che è una famosa storia della vita di Daniele, che tutti noi abbiamo sentito, almeno qualcuno a un certo punto ce l'ha raccontata, ed è Daniele nella fossa dei leoni, Daniele che si ritrova condannato a morte, condannato ad una morte atroce in una fossa dove c'erano dei leoni, è stato gettato in questa fossa. E noi arriviamo a questa storia, però prima di raccontare quello che mi colpisce di questa storia, voglio un po' darvi quello che è il contesto, quello che Daniele da sempre ha vissuto, perché è straordinaria tutta la vita di Daniele. Daniele era un ragazzo nobile che viveva a Gerusalemme. Era un ragazzo la cui vita era stabile, era tranquilla. Lui era nel benessere e prospettava sicuramente davanti a sé un futuro meraviglioso, roseo. Un futuro nel quale lui, da nobil'uomo, nobil ragazzo, avrebbe potuto intraprendere una certa carriera, un certo successo. Lui a Gerusalemme era libero fin quando la città di Gerusalemme non è stata assediata dai babilonesi. E i babilonesi sono entrati in città e hanno schiavizzato, preso, catturato alcuni uomini, tra cui Daniele e i suoi amici. Daniele si ritrova così, da avere una vita che si prospettava essere serena e tranquilla, ad essere catturato, schiavizzato, ad essere deportato, probabilmente a essere anche stato evirato perché era sotto il capo degli eunuchi, e quindi ogni cosa che lui aveva previsto per la sua vita viene ribaltata in maniera negativa. E Daniele ora si trova a Babilonia, una nazione che non ha scelto lui, in un paese straniero dove non si parla la sua lingua, in un luogo dove lui non è riconosciuto, dove non è libero, dove non può fare quello che vuole, non può vivere quello che ha desiderato e dove i sogni si fermano, ma Daniele rimane integro in Cristo, rimane integro in Dio, confidando in Lui. Del resto Daniele sapeva molto bene le parole che vi ho letto di Geremia. Daniele viene dopo Geremia di alcuni decenni e quindi io credo che Daniele abbia memorizzato le parole del profeta Geremia. E ciò che mi colpisce ancora di più della vita di Daniele è che non ha solo memorizzato quelle parole, le ha messe in pratica e oggi è un esempio per noi. Daniele attraversa degli alti e dei bassi, dei momenti felici e dei momenti di sciagura. Minacciato di morte più volte, lui rimane integro e confida nel Signore. Fa del Signore la sua fiducia, mette in pratica Geremia 17 e nel capitolo 6 arriva in questa situazione che è finalmente quasi un riscatto rispetto a tutto quello che ha vissuto fino ad allora. Finalmente cambia il re di Babilonia e questo nuovo re riconosce Daniele. Vede in Daniele una capacità straordinaria, una sapienza straordinaria. Gli offre una prospettiva, già desidera e ha espresso questo desiderio nei confronti di Daniele, che Daniele diventi secondo a lui, cioè che tutto il regno sia nelle mani di Daniele. Io provo a immaginare lo stato d'animo di Daniele. Daniele a questo punto deve essersi sentito appagato, felice, contento. Ora di nuovo ho libertà per la mia vita. Ora di nuovo, presto, con questa nomina, con questa promozione, potrò rivivere tutti quei sogni che tempo fa avevo. E Daniele in questa situazione si rivede benedetto da Dio, tutelato da Lui, fin quando, per l'invidia dei colleghi di Daniele, lui si ritrova di nuovo a perdere ogni sogno perché i colleghi di Daniele fanno qualcosa di atroce, lo tradiscono alle spalle, macchinano e organizzano una serie di cose per permettere che fosse decretato una legge ad hoc che incastrava Daniele e lo condannava a morte. Daniele, dovete pensare, no? Immaginare come si deve essere sentito in questo momento. Un decreto era stato scritto e firmato dal re, che diceva che nessun uomo avrebbe potuto adorare il suo Dio se non il re di Babilonia. E Daniele non poteva rinunciare ad adorare, a servire e a rimanere costante e integro nella preghiera nei confronti del suo Dio. Era in trappola. Era in una condizione di claustrofobia, con le spalle al muro, senza più scelta. Quante volte ti sei trovato tu nella tua vita in una condizione dove ti è sembrato che non potevi più scegliere, dove eri incastrato, dove qualcuno ti aveva fatto talmente male e ti aveva tradito nei tuoi sentimenti, nella tua amicizia, nel tuo relazionarti a queste persone, al punto tale da vedere crollare proprio il futuro davanti a te? Cosa hai fatto quando questo è accaduto? Io voglio leggervi quello che ha fatto Daniele, perché secondo me è straordinario quello che Daniele ha fatto, perché noi leggiamo in Daniele al capitolo 6, dal versetto 10, che quando Daniele seppe che il decreto era firmato, non c'era più nulla da fare, era firmato, era decretato, lui sarebbe andato a morte. Andò a casa sua. Leggete con me. E tenendo le finestre della sua camera superiore aperte, verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Come era solito fare anche prima. Queste parole le ho sottolineate, le ho evidenziate, sono nella mia Bibbia come un promemoria. Come era solito fare anche prima. Daniele non cambia idea. Daniele non cambia abitudini. Daniele non cambia nella sua costanza, Daniele non cambia nelle scelte che riguardano Dio, ma rimane costante e continua a fare quello che faceva prima. Nella stagione difficile, fratelli, sorelle, continua a fare quello che facevi nella stagione facile. Nelle benedizioni che avevi da parte di Dio, che ti portavano a saltare in chiesa e a lodare a squarciagola, nella stagione difficile continua a saltare, continua a cantare, continua a lodare e a pregare. Non cambiare la tua attitudine nei confronti di Dio, perché quella è l'arma che il maligno vuole usare contro di te. Vuole chiudere la tua bocca, vuole farti portare ad un sentimento di delusione nei confronti di Dio, ti vuole allontanare dalla fonte di vita che Dio è per te, ma tu rimani stabile nel fare le cose che hai determinato nella tua vita che sono prioritarie. Ciò che è prioritario nella stagione di benedizione, dove vediamo Dio fare miracoli nella nostra vita, deve rimanere prioritario quando le stagioni cambiano, anche se questo dovesse costarti tutto. A Daniele questo gesto, questa costanza, gli è costato tutto. Gli è costato essere gettato nella fossa dei leoni. Gesù dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, ed ogni altra cosa vi sarà sopraggiunta. Cerca prima. Gesù sta parlando di una priorità. Daniele viveva per priorità. Daniele viveva per una routine. A volte pensiamo che la routine sia sempre sbagliata, che rifare le stesse cose sia qualcosa che può portare qualcosa di stagnante nella nostra vita. Questo è vero per alcune cose, ma non è mai vero per la preghiera. Non è mai vero per la lettura quotidiana, non è mai vero per l'adorazione, non è mai vero per il digiuno. Se tu rimani costante in queste cose, queste saranno la tua forza, queste saranno il tuo vigore, queste sono le radici che si stendono lungo il fiume, questa è la garanzia per portare frutto in ogni tempo e per rimanere verdeggianti, sempre verdi. Sii costante nel venire in chiesa. Quello che noi abbiamo riscontrato in questo tempo di pandemia è che molte persone, per buone ragioni, hanno cominciato a lasciare la comune adunanza, il venire in chiesa. E questo può sembrare qualcosa che non fa alcun danno, ma a lungo andare, proprio perché in questo c'è una trappola del nemico, toglierci quella che è una routine sana per la nostra vita, a lungo andare noi abbiamo visto queste persone entrare in crisi, alcune di queste entrare in profonde crisi spirituali, entrare in difficoltà relazionali, entrare in difficoltà emotive, entrare in difficoltà matrimoniali. E vedete, ci sono delle routine che garantiscono il nostro benessere. Ed è per questo che dobbiamo mantenerle. Servi il Signore in ogni tempo, sii stabile nel stare alla sua presenza con la Chiesa, sii stabile nel leggere e nel pregare, sii stabile nel tuo dare la decima, non essere incostante in questo. È una prova quando ci sono situazioni difficili, anche economiche difficili, ma in quel momento che tu dici io cerco prima il regno di Dio, perché Gesù ha detto che poi ogni cosa mi sarà sopraggiunta, io seguo l'esempio di Daniele e rimango stabile nel mantenere le mie priorità e la costanza per quelle cose che mi fanno bene. C'è una seconda cosa che notiamo nella vita di Daniele in queste poche parole, che è straordinaria. Lui apre le finestre e le apre verso Gerusalemme e prega verso Gerusalemme. Si orienta verso Gerusalemme. Che cos'è Gerusalemme? Non è solo la città dove è nato e cresciuto. Gerusalemme era la dimora del Tempio di Dio e dove c'era, per quello che Dio aveva dichiarato, lui aveva dato questa promessa al suo popolo: io sarò con voi nell'arca del patto, nel Tempio. E quindi il Tempio rappresentava la presenza di Dio, non solo, ma Gerusalemme rappresenta la città regale. Gerusalemme rappresenta l'impero, se vogliamo, il dominio, l'autorità di Dio sulla terra. E quindi quando Daniele guardava verso Gerusalemme, io credo che lui pensava: il mio Dio, il mio re è il Signore degli eserciti, la mia autorità è l'Eterno, il Creatore, colui che ha l'ultima parola sulla mia vita è il mio Signore, sovrano, sempre stabile sul suo regno, sul suo trono. Non è questo re, non sono queste persone, non sono queste circostanze. Quando viene la stagione difficile, noi facilmente possiamo perdere l'orientamento. L'orientamento nei pensieri, l'orientamento nella fiducia, l'orientamento nelle scelte. E il Signore vuole che noi siamo ben orientati, e Daniele ci dà un bellissimo esempio. Dice: io sono qui a Babilonia, ma il mio orientamento rimane per il regno di Dio. E quindi lui prega guardando Gerusalemme. Nella stagione difficile, e non so se tu stai attraversando oggi una stagione difficile, forse questo messaggio è proprio perfetto per te in questo tempo, ma se non è questa la stagione difficile verrà. E quando verrà, sarà così importante che tu non solo mantieni le tue priorità e delle buone abitudini, ma anche tu abbia un chiaro orientamento, uno stabile orientamento per Dio, uno stabile orientamento per quelle che sono i suoi comandamenti, le sue indicazioni. Quando tu segui quello che Gesù dice, e rimani focalizzato sulla sua autorità e sul suo governo, tu affronti ogni stagione rimanendo resiliente, costante, fermo, incrollabile. Non è questa la vita che vogliamo? Quanti possono testimoniare oggi che funziona? Funziona. E te ne accorgi quando la stagione passa. E quando la stagione passa e ti guardi indietro, riconosci che hai fatto delle scelte sbagliate e ogni qualvolta hai avuto un pensiero che era disorientante, quello ha fatto del male. Ma riconosci anche che ogni volta che hai riposizionato la tua mente, i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, le tue scelte su Dio, lì hai avuto successo. Gesù vuole per te e per me un benessere costante. Un benessere costante. Riorienta i tuoi pensieri. Riorienta i tuoi pensieri nella direzione delle promesse di Dio. Perché il nemico mette altri pensieri e ti prospetta tutto nero, negativo e disastroso. Ma la stagione difficile passa. E il maligno perde. Perché lui è sconfitto nel nome di Gesù. Perché lui ha già perso nel nome di Gesù. Perché Gesù ha vinto e lui è re. Perché lui è stabile sul suo trono e continua a regnare. Perché nulla può vincere la potenza che c'è nel nome di Cristo Gesù. C'è un ultimo aspetto, e l'ho lasciato per ultimo perché per me è il più straordinario. Perché io posso ben immaginare un Daniele che, dopo essere stato tradito, dopo avere sulla sua testa un decreto di morte, va a casa e prega. Nessun buon credente non farebbe altrettanto. Cioè, tutti noi che crediamo, la prima cosa è pregare. La prima cosa è richiamare l'attenzione di Dio. Andare da Lui con la lista di necessità e di richieste. Signore, fai questo, intervieni in questo, cambia questo, aiutami in questo, soccorrimi. E le nostre preghiere si fanno tanto più intense quanto più è intensa la stagione di difficoltà che stiamo vivendo. Ma ciò che mi colpisce, mi lascia anche un po' perplesso della storia di Daniele e di quello che abbiamo letto, è che c'è scritto che lui pregava e ringraziava. E ringraziava. L'ho letto, ho detto, ma sappiamo tutti che la Bibbia non è stata scritta in italiano, no? È una traduzione, c'è un linguaggio d'origine. E quindi sono andato al termine originale per scovare e scoprire qual era stato l'errore nella traduzione, no? Forse significava qualcos'altro, forse intendeva dire che nel pregare alzava le mani o nel pregare aveva una gestualità particolare, ma nel cercare, ricercare, scavare, studiare questo termine, ringraziava, tutto ciò che ho potuto scoprire è che è una perfetta traduzione autentica che non può avere altri sinonimi. È il termine che descrive l'azione di Daniele. Era proprio ed è il ringraziamento. Provate a immaginare, immedesimatevi in quest'uomo. Stava per morire. Nessuno l'aveva mai fatta franca da una fossa di leoni. Li lasciavano a digiuno. passavano pochi minuti ed eri morto. Tutto stava per finire. La sua vita stava per concludersi in una maniera atroce. E Daniele che fa? Lui prega. Ma la preghiera aggiunge il ringraziamento. Quanto vorrei sapere che cosa ha detto. Forse è una delle prime domande che farò quando andrò in cielo. Daniele, spiegami, dimmi le parole che hai usato. Come hai ringraziato in quel momento? Cosa hai detto in quel momento? Possiamo immaginarlo lì in ginocchio, Daniele, che prega e dice: Signore, ho bisogno di te. Ho disperato bisogno di te. Mi hanno tradito, mi stanno guardando ora mentre prego a te. E proprio in questo momento, nel loro osservarmi, è stabilito, sarò sbranato dai leoni. Tutti i miei sogni sono svaniti. Aiutami tu. Ma ti ringrazio. Ti ringrazio perché sei il mio Dio. Ti ringrazio perché sei fedele nella mia vita. Ti ringrazio perché quello che tu hai mostrato al profeta Geremia è vero, io l'ho vissuto. Tu mi mantieni verdeggiante, tu mi permetti di portare frutto. Io confido in te e ti ringrazio. Ti ringrazio per i miei amici, ti ringrazio per questo esilio, perché per quanto sia stato difficile, tu sei sempre stato con me. Io ti ringrazio per quei sogni che mi hai dato modo di interpretare. Ti ringrazio per i miracoli che ho potuto vedere. Ti ringrazio perché tu hai dimostrato di non lasciarmi mai solo. Io credo che Daniele abbia ringraziato per tutte queste cose e molte altre. E sapete cosa possiamo imparare noi da Daniele? Che se c'è un'arma che chiude la bocca del nemico e chiude la bocca delle fauci di ogni leone, è l'arma del ringraziamento nella stagione più difficile. Nella stagione di morte, nella stagione di minaccia, nella stagione di tradimento, nella stagione dove tu ti senti messo al muro, ringrazia il Signore, perché se ringrazi, il diavolo non avrà più potere nella tua vita di derubarti di nulla, perché tu riconosci ogni cosa per la quale Dio è sempre meritevole di lode e adorazione. Sappiamo come va la storia. Daniele viene buttato nella fossa dei leoni e per un'intera notte ci rimane. E io credo che in quella fossa continua a pregare e a ringraziare. E più passa la notte e più rimane solo ringraziamento nella sua vita. Perché si vede attorno a tanti leoni affamati con le bocche chiuse che riposano. Perché Dio è lì con lui. Dio è con te. Dio è con te sempre. Dio è con te nella stanza di preghiera. Ma Dio è con te anche nella fossa dei leoni. Dio è con te sempre e ovunque. E questa è la promessa più ripetuta nella Bibbia. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io sarò sempre con te. E tu oggi puoi far tua questa promessa e riconoscere che Dio è con te. E meno dai peso ai leoni che ti circondano, e meno dai peso ai traditori, e meno dai peso ai decreti che vengono scritti, più tu trionfi. C'è un altro decreto che è scritto sulla tua vita. Ed è un decreto di vita, ed è un decreto di liberazione, ed è un decreto di vittoria. Gesù vuole darti vittoria e benessere costante. Devi fare tre cose. Rimani costante in Lui e dai a Lui la priorità. Confida con tutto il cuore in Lui. Rimani stabile nelle buone abitudini. E poi quello che devi fare è non perdere l'orientamento, rimani orientato su di lui, rimani orientato su quello che lui è per la tua vita. E il terzo è ringrazia. Questa settimana che ci sta davanti c'è una festività che è molto vissuta, intensamente vissuta negli Stati Uniti, che è la giornata del ringraziamento. Ed è bello avere una festività del genere. Secondo me dovremmo importarla, dovremmo tutti festeggiare il giorno del ringraziamento. Però sapete una cosa? Dio ci dà modo di fare di ogni giorno una giornata di ringraziamento. E la mia preghiera è che tu oggi possa avere la forza di ringraziarlo, e ancor di più nella stagione difficile tu possa prendere quest'arma nelle tue mani e vincere contro il nemico, perché hai sempre e avrai sempre mille ragioni per essere grato a Dio. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Vuoi chiudere i tuoi occhi, dovunque ti trovi, anche a casa, a Mottola, dovunque ci stai seguendo in questo momento, chiudi i tuoi occhi. E io voglio pregare una preghiera che possa essere di benedizione per la tua vita in questa stagione, in ogni stagione che ti sta davanti. E voglio confessare le parole di Geremia 17 per te e per la tua famiglia. Io, Padre, voglio pregare per ognuno di noi. Io prego in questo momento, Gesù, affinché chiunque sta ascoltando questa preghiera possa avere vigore, lo stesso vigore di Daniele, di mantenere sane abitudini, di avere un sano e chiaro orientamento e di mantenere il ringraziamento vivo nella propria vita. E ti voglio pregare che quando viene la calura, nessuno dei tuoi figli e delle tue figlie che in questo momento ascolta questa preghiera possa accorgersi della calura. Voglio pregare che il fogliame rimanga verde. Voglio pregarti che nell'anno della siccità nessuno di noi possa essere in affanno. Padre, anche se la stagione è lunga e può essere un anno, anche più di uno, io prego affinché non ci sia affanno nel nome di Gesù. Questa è una tua promessa. E io prego che chiunque è in affanno oggi possa lasciare il proprio affanno a te. E io voglio pregare che nessuno di noi possa cessare di portare frutto nel nome di Gesù, che il nostro frutto possa essere abbondante in ogni tempo e che come Daniele noi possiamo testimoniare di una vita impossibile per chi non crede in te, ma miracolosa e possibile per coloro che ripongono la loro fiducia in te. Una vita fruttuosa, una vita che testimonia della tua fedeltà, una vita che testimonia della tua presenza. Io prego, Padre, per costanza, io prego per priorità nelle nostre vite, io prego per decisioni in questo momento, io prego, Padre, per decisioni radicali nel metterti al primo posto, nell'essere parte della Chiesa, nel servire, nel dare, nel pregare, nel leggere la tua parola, nel cibarsi della tua presenza. Io prego, Padre, per orientamento, io prego, Padre, per ringraziamento, e noi abbiamo mille ragioni per cui ringraziarti e lo vogliamo fare insieme. Quindi io voglio invitarti, Chiesa, alziamo le nostre mani e cominciamo a ringraziare il nostro Dio. Ringrazialo ora per ogni ragione per cui hai modo di ringraziarlo. Facciamolo con la lode, con il canto, facciamolo con le nostre parole. Ringrazia, ringrazia per ogni piccola e grande cosa, perché Dio è degno del nostro ringraziamento. Alleluia, forza Chiesa.